America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It is necessary in any democracy for there to be compromise. People have differences of views and they have to come together to work together. Joe Stiglitz, premio Nobel per l'economia, ho fatto una lunga chiacchierata con lui l'altro giorno. Abbiamo parlato d'Italia, abbiamo parlato di Grillo, abbiamo parlato di possibilità di formare o meno un governo. Beh, avete sentito la sua prima risposta. Beh, insomma, lui si augura che qualche cosa accada nel nostro paese, perché dice che in ogni democrazia il compromesso è necessario. Ci possono esserci punti di vista diversi, però ci si deve mettere insieme e collaborare. Ecco, in questa sua risposta si riferisce direttamente ai grillini, a Grillo e al PD, al Partito Democratico di Bersani. Ritiene invece che non sia possibile che un compromesso possa esserci fra Berlusconi e Bersani, quindi punta molto su Grillo. Sappiamo che Grillo si è ispirato in alcune sue posizioni economiche proprio a Joe Stiglitz, che resta un po', beh, lo definirei un po' il discolo fra gli economisti americani, sempre molto provocatorio, ha una storia sua anche molto particolare. Joe Stiglitz a un certo punto fu nominato ai tempi dell'amministrazione Clinton come capo economista della Banca Mondiale. Ebbene, quando un economista va in una istituzione come la Banca Mondiale o come un ministero o come qualunque altra istituzione, diciamo, perde quella che è la sua autonomia intellettuale e si deve adeguare a quello che è il gioco di squadra. Ecco, Stiglitz, sempre molto creativo e anche un po' indisciplinato, in quell'occasione litigò coi suoi capi e fece dichiarazioni pubbliche contrarie a quelle che erano le scelte della struttura che è rappresentata da un consiglio, da un board, da un capo e così via, e dunque dovette lasciare e se ne andò. Perché dico questo? Perché Stiglitz ama la provocazione. Detto questo, è un economista molto bravo, e dunque vediamo un attimo di mettere in un contesto questa chiacchierata con riferimenti all'economia italiana, a quella europea e naturalmente alla situazione politica nostrana. Primo elemento, un compromesso fra Bersani e Beppe Grillo. Poi gli chiedo cosa pensa dell'austerità, che insomma in qualche modo ci ha danneggiato. Sentiamo la risposta. What I would hope is that Europe will change its austerity policies and that it will realize that for the euro to work, there needs to be a banking union. Ecco, qua Stiglitz dà una risposta molto articolata sull'austerità. Parte dall'Italia e lui si augura che l'Italia possa cambiare le sue politiche di austerità, perché per far funzionare l'euro ci vogliono delle risoluzioni comuni, ci vuole un'azione bancaria, un'assicurazione comune sui depositi, una supervisione comune, c'è bisogno di una maggiore unione fiscale, chiede che ci sia un eurobond. Il suo appello è per un cambiamento verso una politica meno severa, che ci siano più soldi in circolazione. And I think that the view that some people have expressed that one might have to abandon the euro to save Europe is one that has some concern. It would be preferable, obviously, to make the deeper reforms, policies that promote economic growth, and there are a number of policies that would do that. You need to have industrial policies. La visione di riforme di Stiglitz è quella di una riforma strutturale molto profonda, di politiche che possono promuovere la crescita economica, che secondo lui oggi non ci sono. Ci vogliono delle politiche industriali e bisogna eliminare queste restrizioni dell'Unione Europea sulle politiche industriali, perché altrimenti un paese è imbrigliato sotto ogni punto di vista ed è difficile andare avanti. Il suo problema è che l'Europa credeva di aver creato un terreno più o meno livellato. In realtà ha fallito da quel punto di vista, perché ci sono paesi come la Germania che si trovano molto più avanti, approfittano della struttura della moneta unica, e paesi come l'Italia che hanno bisogno di maggiore flessibilità. Dunque procedere, ma procedere anche con riforme strutturali è difficile. Ecco, gli chiedo poi se Grillo non sia forse populista, fa delle promesse magari sul fronte del salario minimo altissimo secondo alcuni, oppure sull'indice di felicità. Sentiamo come mi risponde. Not populism. To say that a society, a democratic society, should pay attention to what people want is what democracy is about. People want a better environment. That's not populism. Ecco, Stiglitz mi dice che molte delle idee di Grillo secondo lui non sono populiste, perché se la gente esprime un desiderio con una forte maggioranza di voto, comunque con un voto molto forte, per esempio sul fatto di migliorare l'ambiente, beh, bisogna ascoltare. Questo è il processo democratico. Conferma che secondo lui è anche una buona idea quella di procedere con un salario minimo, che è una buona idea quella di cambiare il PIL, di introdurre elementi che possano dare un'idea di qualità e dunque questo indice di felicità, anche se poi secondo me la felicità è molto soggettiva, tutti sono d'accordo magari nel cambiare, nel modificare il PIL, ma parlare di felicità poi secondo me resta populismo. Bene, ho con me il microfono di America 24, Luigi Zingales. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Bene Luigi, hai sentito questa chiacchierata con Stiglitz. Intanto, descrivici il personaggio Stiglitz, il tuo collega. Joe è un grande economista dal punto di vista teorico. Come policymaker ha delle posizioni abbastanza estreme e soprattutto si diverte a essere controcorrente e fare quello che i francesi direbbero il pâté le bourgeois. Quindi non mi stupisce assolutamente che sposi le tese grilline, che si proponga come un grillino antelittera. Ecco, tra l'altro parliamo di salario minimo, perché c'è un dibattito in effetti sul salario minimo, però l'idea col populismo grillino è che tutti devono avere questo salario e poi si vedrà come, ma insomma i salari non piovono dal cielo. No, i salari sicuramente non piovono dal cielo. Secondo me l'idea di discutere un salario minimo in Italia è una proposta valida. Il problema sono due. Il primo è quali sono i costi di questa operazione. La seconda è quali sono gli effetti di disincentivo verso l'entrata nel mondo del lavoro, eccetera, che un salario minimo può fornire, e quindi bisogna in qualche modo avere dei meccanismi di compensazione che riducano questi effetti negativi. Però secondo me, se è parte di una riforma complessiva del mercato del lavoro, ad esempio dicendo abbiamo più flessibilità nei licenziamenti perché esiste il salario minimo, è una cosa su cui si può discutere. Nello stesso modo uno dovrebbe eliminare altre forme di protezione come la cassa integrazione guadagni e cose di questo genere, che sono generalmente indirizzate a delle categorie particolarmente protette. Cioè il salario minimo dovrebbe andare nella direzione di dire sono tutti uguali, ma questo significa che l'eguaglianza si fa sulla media e quindi ci saranno delle categorie che perdono da questo, categorie particolarmente protette che perdono. Tutto questo va discusso. Ecco, ultima cosa, l'indice della felicità. Sappiamo tutti che il PIL, anche il tuo collega Gary Becker, alto premio Nobel della scuola di Chicago, dice ma sì, in effetti come misura non funziona perché ha molti difetti, però tutto sommato miglioriamo quello piuttosto che introdurre altri indici. Tu come la vedi? Il PIL va sicuramente letto con grano salis, idealmente andrebbe modificato. Però in questo momento buttarlo via a favore di idee molto astratte mi sembra un po' velleitario. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, il rapper Jay-Z ha deciso di portare per un anniversario di nozze Beyoncé, la sua compagna celeberrima, a Cuba. Che è successo? Che dei rappresentanti al congresso si sono ribellati, dice, ma come? Non è possibile un viaggio illegale. In realtà Jay-Z aveva organizzato tutto per bene e voleva che questo viaggio avesse anche un impegno politico, e dunque ha risposto ieri a questi due deputati con una canzone, una open letter, una lettera aperta di Jay-Z. Let me commit a real crime. I might buy a kilo for cheap beef. Out of spite, I just might flood these streets. Hear the freedom in my speech. Got an onion from Universal, read it and weep. Would have bought the Nets to Brooklyn for free, except I made millions off of you fucking dweeb. I still own the building, I'm still keeping my seats. Y'all buy that bullshit, y'all better keep y'all receipts. Obama said chill, you gon' get me impeached. You don't need this shit anyway, chill with me on the beach. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.